Radio Grad, la radio libera e resistente. Il governo Meloni vuole di nuovo mettere le mani nel TFR dei lavoratori e lo fa utilizzando la tecnica del silenzio assenso, almeno questa è una delle due proposte in campo. E ricorderete tutti che nel 2006 fu un fallimento totale, perché poi la stragrande maggioranza dei lavoratori rifiutarono di gettare il loro TFR tra le fauci del mercato. L'altra proposta in campo sarebbe proprio quella di, in maniera coattiva, di destinare il 25% del TFR ai fondi. È ovvio che questa è sia la causa che l'effetto di un sistema previdenziale sempre più in crisi, perché è stato colpito riforma dopo riforma da governi di ogni colore e che ha fatto sì che le pensioni siano sempre più basse e più lontane. Allora, va detto che il TFR è un istituto comunque sicuro, protetto dalla legge, dalle impennate inflattive, perché si rivaluta annualmente dell'1,5% più il 75% dell'inflazione, tant'è che durante gli anni con inflazione a due cifre ha retto benissimo, mentre alcuni fondi non legati all'inflazione sono andati in crisi. E c'è poi tutto un ragionamento politico e sindacale da fare, che è sicuramente la cosa più importante. Quindi, uscendo da quello che è l'aspetto tecnico, il punto politico è che cosa dovrebbero fare i sindacati di fronte al tentativo di scippo del TFR, all'ennesimo tentativo di scippo del TFR. È chiaro che il TFR in questo contesto viene messo in discussione, viene utilizzato per andare a coprire un buco sulle pensioni, no? Quindi il modo per aumentare di poco, tra l'altro, la propria pensione, che sarà sempre più misera, sarà quello di prendere tutto il TFR e destinarlo a questi fondi integrativi. È chiaro che un sindacato, che deve essere un'organizzazione di lavoratori, quindi un'organizzazione di classe, l'unica cosa che deve fare è organizzare la lotta per delle pensioni dignitose, utilizzando le risorse che sono presenti in abbondanza, provenienti dai capitali di chi continua ad arricchirsi, e non utilizzare i soldi che sono già dei lavoratori, che sono quelli del TFR, per andare a mettere una pezza, per versare qualche monetina sulla pensione misera, che è misera proprio per le riforme che sono state fatte. Che cosa ci guadagnano questi sindacati, queste direzioni di CGIL, CISL e UIL, che propongono, che non solo non contrastano, ma propongono, si fanno promotrici della previdenza integrativa? Ci guadagnano chiaramente prebende, privilegi, poltrone e gestione di fondi che sono di fatto miliardari per tutti i soldi dei lavoratori, e quindi hanno le mani in pasta, come si suol dire, no? Quindi la figura del sindacalista, che dovrebbe essere un po' il riferimento dei lavoratori, colui che dovrebbe dirigere, organizzare le lotte, si trasforma in un consulente finanziario in un esperto di andamento dei mercati e in un promotore di fondi integrativi. Al contrario, questa linea è stata sempre combattuta dall'universo, diciamo, del sindacalismo di base, e quello che si cerca è di fare sia una controinformazione per spiegare ai lavoratori che per aumentare le pensioni bisogna innanzitutto andare a riprendere delle lotte per il salario, perché la pensione è una percentuale, il contributo previdenziale è una percentuale legata al salario. E quindi il miglior modo per andare ad aumentare la propria pensione è aumentare il proprio salario, aumentando i propri contributi. Un'informazione che vada anche a sbugiardare la favola del welfare contrattuale, perché di fatto si tratta di elusione previdenziale, perché il welfare contrattuale, al di là che non dà la possibilità di scelta su come fruire il valore del premio, perché è vincolato a dei buoni spesa ottenibili a alcuni a determinate condizioni, ma è defiscalizzato e non prevede il pagamento di contributi, altra cosa che va a impoverire i bilanci dell'INPS. Controinformazione, chiaramente, per andare a spiegare che cosa si cela dietro la truffa della previdenza integrativa e per iniziare, appunto, come dicevo, a organizzare le lotte necessarie per andare a recuperare quote di ricchezza che i lavoratori hanno prodotto ma che è stata loro espropriata dai padroni. Radio Grad, la radio libera e resistente.